Certo che sì, quello già è vero, non ci sono dubbi. I giovani di oggi preferiscono quel genere di musica, ma a me sinceramente, anche quando ero giovane, non mi sarebbe mai piaciuto un tipo di musica del genere. Io sono per la musica tradizionale, quella come si deve, quella dove c'è grande poesia, dove ci sono grandi voci, eccetera eccetera. Oggi tutti borracci, tutti maleducati, tutti spudoratamente si presentano sul palco nudi, tanta gente, e vestiti anche da pagliacci. Comunque, facciano come vogliono, non me ne frega niente. Ok, Giulio, io devo mollare, che devo andare ad accompagnare mio figlio, dai, adesso mi ha chiamato ora, e quindi devo scappare. Dai, ci sentiamo stasera se coincide. Buona serata, buon tutto, buon pranzo, tante cose belle. Ok, ciao T, alla prossima, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao, buona passeggiata. Neia, ciao, ciao. Cristianio Pavi, Giovanino Giordo, musica sassarese per svegliare i CB. Lilo, vota sulla pace.